Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Qualche puntata fa abbiamo parlato del caso di un'acciaieria nella quale per la prima volta in Italia si è proceduto a recuperare il calore disperso dai fumi per produrre energia elettrica e alimentare nel periodo invernale la rete di teleriscaldamento locale. Questa sera vogliamo dare uno sguardo più dall'alto a questo settore, quello del recupero dei cosiddetti cascami termici, ovvero il calore di scarto prodotto a valle di moltissimi processi civili e industriali e che normalmente viene disperso in atmosfera piuttosto che nelle acque di qualche fiume. Parliamo di quantitativi di calore immensi, ma per lo più difficili da sfruttare. Oggi però le tecnologie per farlo esistono e, come vedremo, paesi come la Cina stanno puntando moltissimo su questa strategia, che è estremamente efficiente dal punto di vista, come dicono gli esperti, termodinamico. Ne parliamo con Marco Baresi, che è responsabile delle relazioni istituzionali di Turboden, azienda che opera nel settore della cogenerazione, e vicepresidente di Italcogen, associazione che appunto riunisce le imprese operanti in questo campo. Buonasera Baresi. Sì, ciao Maurizio. Eccoci qua. L'invito. Allora, intanto Marco, quali sono i settori industriali in cui, diciamo, il recupero di calore è più promettente, in particolare in Italia? È utile precisare che il recupero di calore può essere un recupero meramente termico per utilizzo di calore diretto, oppure, come nel caso di Viori Martin, si può combinare l'utilizzo sia termico che elettrico, ci sono le tecnologie ORC. Settori industriali tipicamente sono l'acciaio, quindi stiamo parlando di forni ad arco elettrico piuttosto che laminatoi, oppure nel cemento o ancora nel vetro, e parliamo di vetro piano o anche vetro cavo, oppure le fonderie. Anche le fonderie sono un altro potenziale bacino. Quindi diciamo soprattutto quei processi industriali che sviluppano molto calore e che disperdono il calore in eccesso ad alta temperatura, perché è importante, no? Più alta la temperatura, più è facile sfruttare questi cascami termici. Sì. Infatti, noi ci caratterizziamo con la tecnologia ORC all'interno di quelle che sono le medie, che è una tecnologia che consente di sfruttare temperature anche un po' più basse delle tecnologie tradizionali, adesso senza entrare nei dettagli, ma è questa per produrre energia elettrica. Ecco, Baresi, c'è uno studio della World Bank che fa il punto un po' su questa pratica del recupero dei cascami termici. È uscita una mappatura di quello che sono i recuperi termici, recuperi di calore nell'industria del cemento a livello mondiale. Quello che colpisce è che sono circa 850 quelli mappati all'interno dello studio, che però non è aggiornatissimo. Sì, saranno un po' di più ormai, sì. Siamo già arrivati ormai a più di 1000, ma quello che fa specie è che di questi 850, 739 sono in Cina. E questo fa riflettere. Fa riflettere perché secondo me è un esempio di come sono riusciti ad integrare un discorso di politica industriale con sostenibilità economica e ambientale, con il tema dell'efficienza energetica, che è un tema attuale. Addirittura è obbligatorio in Cina, no? Per chi fa cementifici, recuperare il calore. Sì, siamo in un ambito diverso rispetto a quello europeo / italiano, perché lì si costruiscono cementifici. In Europa... Si demoliscono probabilmente. Però diciamo che deve essere già previsto in ogni cementificio nuovo dal 2011 il recupero di calore. In Italia anche abbiamo una filiera forte, diciamo, in questo settore del recupero termico. Qual è la situazione in Italia dal punto di vista delle barriere e delle policy? Abbiamo sentito che la Cina ha sposato, diciamo, questa strategia. Le barriere e policy sono legate. Tra le barriere individuiamo sicuramente i costi di investimenti, che sono ancora alti per questo tipo di interventi, che sono considerati, non sono considerati core business da parte dell'industria. Quindi è necessario che le policy sviluppino per esempio degli strumenti finanziari ad hoc, quindi o dei meccanismi di garanzia, o il fatto di utilizzare, cioè di poter... dei fondi, insomma, o dei fondi di garanzia o dei fondi a tasso agevolato. Perfetto, o dei meccanismi anche balance, cioè qui possono intervenire per esempio l'altra filiera, che è quella delle energy service company, che possono fare un ottimo lavoro da questo punto di vista. E non posso non menzionare anche il tema degli sconti sulle bollette. Spesso questi sconti agli energivori non legati agli investimenti di efficienza energetica portano di fatto a rendere gli investimenti stessi di efficienza energetica non convenienti. Quindi, cioè lei dice rispetto alle industrie energivore che in Italia godono di forti sconti sulla bolletta elettrica, questi sconti dovrebbero essere legati all'impegno a fare efficienza energetica, così l'industria diventa anche più competitiva e non bisogna fare gli scontri per sempre. Di fatto è un po' questo. Cioè, se in altri paesi fanno investimenti in efficienza energetica, si rischia che tra 2 o 3 anni le imprese estere siano più competitive perché hanno messo in atto gli investimenti veri e propri. Insomma, aiutiamo queste industrie a investire piuttosto che fargli gli sconti. Grazie Marco Baresi. Perfetto, grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.